Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Per i bambini fu un lampo trovarsi a raccogliere la legna per il falò dell'ultima notte. Di lì a poco, passato il tramonto, avrebbero cantato a squarciagola. E dopo aver danzato intorno al fuoco, si sarebbero quietati per sorseggiare una cioccolata calda. E lei, Giulia, lo avrebbe allora sì baciato. Angiolino ne era certo. Voleva solo avere il modo di cambiarsi quei pantaloni, di indossare i jeans nuovi al posto di quei vecchi calzoni di velluto verde, così stretti intorno alle caviglie, e non amava poi così tanto. E poi anche Giulia aveva detto di avere in serbo una sorpresa da indossare. Mi chiamo Simone Farnetti, ho 32 anni, sono nato a Siena e vivo ancora, dopo alcuni giri per l'Italia, in questa zona. Lavoro nel reparto risorse umane di una multinazionale. Caro Matteo, io me la ricordo la prima estate da sola della mia vita. 18 anni appena compiuti, 1985, a Ibiza con due amiche. Le discoteche, la movida, tirare mattina in giro per l'isola in autostop, tutto molto divertente. Il ricordo più bello, però, è quello del viaggio di ritorno. Oltretutto con un cucciolo di cane trasportato di contrabbando nello zaino di una di noi. Per arrivare in Italia dovevamo passare una notte a Barcellona, notte che avevamo deciso di trascorrere in attesa del nostro treno in stazione. Solo che a un certo punto la stazione chiude e tutti i saccopelisti come noi, decine di ogni nazionalità, sono stati sbattuti sul marciapiede all'esterno della stazione. Non solo si è formato un dormitorio sotto le stelle in cui si sentiva parlare in mille lingue diverse, ma a un certo punto dai vari zaini sono spuntati biscotti, salami, cracker, patatine, bottiglie di coca e di vino. Immediatamente condivisi tra tutti i partecipanti. E quella specie di congresso dell'ONU improvvisato, l'attesa si è trasformata in una lunga festa, fatta di chiacchiere, briciole, risate e traduzioni improvvisate. L'alba ci ha sorpreso addormentati, tutti vicini gli uni agli altri, ognuno nel suo sacco a pelo. Nessuno è rimasto da solo. Questo è uno dei più bei ricordi di tutta la mia vita e non lo scambierei con quello di una notte nel miglior 5 stelle del mondo. 349-238-6666. La cosa strana che accade con questo programma è che io non mi aspettavo, e neanche Bonini secondo me si aspettava, è che basta una storia di uno di voi, in questo caso la storia di oggi, che è la storia di Simone e parla della prima estate fuori casa, per scatenare una serie di racconti delle vostre altre vite, cioè aspetta, non vostre altre vite, delle vostre vite, cioè le vite degli altri, che hanno più o meno, magari non la stessa trama, però hanno più o meno lo stesso sapore. Voi siete qui, @radio24.it. Il racconto, quello che vi ho appena letto è proprio un piccolo racconto che mi ha mandato Antonella e che riguarda quell'episodio della sua prima estate fuori casa, passato sia a Ibiza ma soprattutto quella notte trascorsa fuori dalla stazione di Barcellona. Perché oggi si parla di quella cosa lì, si parla di quell'estate, visto che prima Simone Spezia diceva che questo è il settembre più caldo dal 1785, dal 1753, e di fatto l'estate si sta chiudendo. La prima estate che avete trascorso da soli, mettetevi in un secondo, non ci vuole tanto, dai, siete in macchina, ma anche a casa o anche al lavoro. Quanti anni avrete avuto? 15? 16? Ma mica tutti hanno trascorso la prima estate, qualcuno anche più tardi. Bonini 17. Ma noi eravamo anziani dentro, però Bonini. Io credo. No, forse 15, sì, c'è in Inghilterra, 15 anni. 349-238-6666. Quell'estate in cui all'improvviso sembra che tutto debba accadere, e poi invece magari non succede proprio niente. Un po' come è successo a me, ma un po' anche come è successo a Simone. Era partito per la colonia con il massimo dell'entusiasmo. 11 anni, cuore liscio e puro. La prima volta fuori casa. Sì, per pochi giorni, certo, però senza i genitori. Solo gli amici, quelli del quartiere, e poi altri che avrebbe sicuramente conosciuto là. E le ragazze. Finalmente le ragazze. Che per il piccolo Angiolino erano state fino ad ora semplicemente frusciare di capelli e di gonne, compiti svolti insieme alla biblioteca cittadina. Alito di dentifricio e caramelle, e guance arrossate per l'imbalazzo. Poco altro più. Certamente quello però bastava. Pioveva ed era domenica, il giorno della partenza. Vivo d'orcia, una casa nel bosco era la destinazione. Angiolino salutò i genitori sul limitare del cancello. Li voleva fuori dai confini del suo piccolo sogno, ma senza essere sgarbato. Evidentemente loro avevano capito, quindi gli passarono la sua valigetta in pelle, così seria per un bambino, e un tantino grande per quel poco di magliette, calzini, mutande che si era portato, e poi lo guardarono andare lento e sereno. Ci misero un paio d'ore e arrivarono nella casa. Nell'atrio si assegnavano le stanze, rigorosamente divise tra gruppi di quattro persone, dello stesso sesso ovviamente. Angiolino comprese di aver ritardato, quindi chiese il numero della propria camera, la 21, e salì le scale in preda all'emozione. L'ideale sarebbe stato condividerla con Roberto e Tommaso, gli amici più cari, e magari con qualcuno di nuovo. Aprendo la porta, Angiolino vide con piacere i suoi amici, in mutande e maglietta. Stavano disfando le valigie su quei materassi immacolati di un letto a castello. E poi c'era una terza persona, un ragazzetto di media statura, grassottello e biondiccio, vagamente asessuato. Gli si presentò timorosamente con il nome di Valentino. Roberto e Tommaso avevano occupato il letto a castello di destra e ad Angiolino toccò l'ultimo spazio rimasto disponibile, quello in basso, nel letto a castello di sinistra. Sopra di lui avrebbe dormito il suo nuovo compagno. Però ricordo molto vivo, è una zona dove sono tornato anche successivamente con amici e ha sempre fatto un bel effetto. Cioè, ci sono alcune zone magari che se rivedi dopo anni diventano meno belle, diciamo, invece quella è rimasta una zona, insomma, sicuramente da vedere e piena di ricordi. Il primo pomeriggio passò lento, abbastanza placido. Sul consumato campo da tennis i ragazzi e le ragazze avevano formato due squadre, ognuna equipaggiata di una grande coperta di lana. Si trattava di giocare una sorta di partita di pallavolo utilizzando la coperta per afferrare e rilanciare quella palla. Ed è così che Angiolino, negato per qualsiasi sport che non fosse il nuoto, si distinse in simpatia e conobbe la ragazza dei suoi sogni. Giulia. Magra e dolce. Giulia che sorrideva continuamente, anche per arrabbiarsi. Che lo chiamava sempre per nome, mentre spesso anche i suoi amici lo soprannominavano l'angelo. Giulia, che non sapeva pronunciare la R e da bambina non la scriveva, perché non le serviva. Per i bambini fu un lampo trovarsi a raccogliere la legna per il falò dell'ultima notte. Di lì a poco, passato il tramonto, avrebbero cantato a squarciagola e dopo aver danzato intorno al fuoco si sarebbero quietati per sorseggiare una cioccolata calda. E lei, Giulia, allora l'avrebbe sì baciato. Angiolino non era certo. Voleva solo avere il modo di cambiarsi quei pantaloni, di indossare i suoi jeans nuovi al posto di quei vecchi calzoni di velluto verde, così stretti intorno alle caviglie, che non amava poi così tanto. E poi anche Giulia aveva detto di avere in serbo una sorpresa da indossare. Comunque sono quelle cose che è bello ricordare, perché poi nel ricordo assumono le tratti della perfezione, no? Cioè dell'episodio, no? che è andato in un certo modo ed è bello ricordarlo così. Pezzi di vista, magari rivisti senza sapere, cioè comunque su quelle persone che viste, ma oramai credo quasi più di 15 anni fa, sicuramente saranno un po' diverse, ecco, rispetto adesso. Salì le scale due alla volta. Roberto e Tommaso non erano affatto invidiosi per lui, anzi facevano come fanno gli amici, lo appoggiavano. Gli raccomandarono di cambiarsi in fretta e uscirono. L'appuntamento era per fuori, intorno al falò. Angiolino non perse un attimo, decise di accelerare i tempi evitando di togliersi le scarpe. Come tante altre volte, si sarebbe sganciato i pantaloni e rovesciandoli li avrebbe fatti scappare dai piedi, stratonandoli con forza. E così fece, con furia. Ma i pantaloni mostrarono di non volere superare l'ostacolo delle scarpe. Lui allora tirò ancora, tese poi le gambe oramai nude fino all'orlo dei calzini di spugna e con tutta la potenza che era riuscito a raccogliere, dette una strattonata. Niente, i pantaloni erano immobili. Sembravano incollati alle scarpe ed erano proprio i tacchetti delle suole a non dare al velluto la possibilità di scorrere. Angiolino urlò con tutta la rabbia che aveva. Fuori intanto crepitava già il fuoco. Scorgeva l'ombra del letto muoversi altalenando alla luce aranciata che penetrava dalla finestra. Provò a compiere l'operazione inversa, cioè rinfilarsi i pantaloni. Avrebbe tolto poi le scarpe, magari dopo, e finalmente i calzoni sarebbero passati con facilità. Ma niente. Tutto bloccato. Non andavano in avanti, non tornavano indietro. E lui sudava senza capire cosa fosse meglio fare. Se avesse avuto delle forbici, li avrebbe tagliati. Fuori intanto si cantava con gioia. Angiolino spense la luce, premendo sull'interruttore in capo al letto. La stanza si dipinse di un arancione splendido, di voci e di immagini che parevano antiche. Dopo scoppiare a piangere, si volse verso il comodino. La tazza di tè brillava e sulla superficie si formarono cerchi concentrici. Ho imparato l'inglese a scuola e infatti lo so male. Quando avevo 15 anni, poi, i miei mi hanno mandato un'estate sulla costa sud dell'Inghilterra, dove la EF organizzava dei corsi estivi per ragazzi del liceo. Era una bella idea. Vivendo qualche settimana in una famiglia che non parlava la tua lingua, tu non potevi fare altro che imparare la loro. Era proprio una questione di sopravvivenza. Andai a Brighton e mi piaceva l'idea, perché c'era una canzone dei Queen che si intitolava proprio così, Brighton Rock. E io mi immaginavo quindi musica ad alto volume, amici, sigarette, birra, pure io che non bevevo, e ragazze, e cose che non avevo mai visto. Sono partito con le migliori intenzioni, e anche se prima non ero mai stato all'estero, non avevo paura nemmeno di prendere l'aereo. E pensavo che quello sarebbe stato il momento di dire addio al mio paese piccolo piccolo, e che sarei tornato a casa da adulto. Fu un'estate memorabile, ci fu tutto quello che mi aspettavo, e anche molto di più. Dormivamo in famiglie che ci ospitavano, solo che siccome loro lo facevano per soldi e non per amore nei confronti degli italiani, potevano capitarti padroni scorbutici e insofferenti. A me ad Alberto, che era con me, capitò esattamente così. Mi ricordo che la colazione era una tazza di latte freddo. Se qualcuno ti rivolgeva la parola era solo per dirti che non gliene fregava niente a nessuno se ci si rifaceva a letto oppure no, ma che una volta a settimana dovevamo pulire per terra e il bagno. Mi ricordo che era gente povera quella, e per fare spazio a noi si stringevano in quattro in una stanza. Poi però c'erano i corsi di lingua durante il giorno e la discoteca di sera. Nessuno ci controllava e stavamo fuori fino a tardi. Ecco, l'importante era capire che la pioggia non ti uccide, e poi andavi liscio. C'erano gli inglesi, e poi c'erano le svedesi, e la birra, e il rock and roll. Ed eravamo felici, anche se i ragazzotti del posto ci rincorrevano per picchiarci, non so perché. C'era un giorno che era stato istituito, si chiamava l'Italian Day. E il fatto è che quando ti inseguivano, la maggior parte delle volte ti raggiungevano, e nessuno ti aiutava. Però alla fine parlavamo pure inglese. E io non lo so, ma se la perdita dell'innocenza è quel momento di dolore mi sto a piacere in cui capisci che tuo padre non è Superman e che tua madre non ti può proteggere da tutto e che non sei immortale, ma sei tu che hai in mano il volante della tua macchina. Ecco, quell'estate poteva essere il momento perfetto per capirlo e per crescere. E invece no. E ci fu tutto, ci furono le sigarette, la musica, le ragazze e tutto il resto. Ma una volta tornato a casa, io tornai ad essere il ragazzino che ero partito. Perché quel mondo era così lontano che non mi aveva insegnato proprio niente. Mi sembrava solo una specie di allucinazione, un sogno, una memoria di qualcosa che non era realmente accaduta. E quando è così non serve a niente. La mia perdita dell'innocenza è passata attraverso un'altra cosa. Un gatto che moriva sul ciglio di una strada. Altro che Bright. Questo messaggio è straordinario. Prima estate da solo, 16 anni con tre compagni del liceo, Jesolo, estate 1977, che non so se è una roba triste o una roba bella. 10 giorni a giugno perché tutti rimandati a settembre. È stata un'esperienza così stupenda che la ripetiamo da 34 anni. Ora solo 3 giorni perché abbiamo famiglia. Ciao Gennaro. 349-238-6666 oppure la mail per scrivere in diretta o per mandare i vostri racconti a voi siete qui @radio24.it. Noi non abbiamo dato indicazioni sulla persona sulla voce narrante, cioè se la voce narrante dei racconti debba essere in prima persona singolare o in terza persona singolare. Di solito accade naturalmente che arriva in prima, giusto? No, sto dicendo giusto, no, Viola? Sai, dico cose poi non le so, giusto? Di solito tutti scrivono in prima persona singolare. Simone invece ha deciso di darsi evidentemente uno pseudonimo, che era Angiolino, e di scrivere in terza persona. Pronto Simone? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, si sta bene questo settembre. Senti, ricordami di dove sei, tu sei di Siena? Sì, sono di Siena. Senti, a Siena di solito si parla di sé in terza persona, come Maradona e il Papa. Ma no, in realtà è il filtro del tempo, per cui ho scritto questa cosa relativa a tanti anni fa e quindi in terza persona. Quanti anni sono passati, Simone? Beh, sono passati 20, 22, 23 anni. Tu adesso sei un uomo, fatto e finito? No, finito spero di no. No, nel senso che diciamo, certo, il percorso di tutti è sempre molto lungo, però quanti anni c'hai, Simone? Beh, 32. Ah, no, vabbè, hai la voce di un cinquantenne però, Simone, con tutto rispetto per i cinquantenni, cioè c'hai 4 anni meno di me. Vabbè, che si deve fare? Che si deve fare? Ma sei al lavoro in questo momento? Sì, sono uscito un attimo. Perché chiaramente non si può star dentro alle risorse umane. Beh, tu ti occupi poi di altre persone, quindi... Ti occupi di risorse umane? Sì. Per una grande multinazionale? Per una grande multinazionale, non facciamo nomi. Ma no, dai, facciamoli, chi se ne frega? No, non possiamo. Ma è una... è una farmaceutica? È una farmaceutica. Beccato. Vabbè, su Siena è semplice, dai, qui. Esatto, su Siena ce n'è una, no? Quindi è quella lì. Come ci sei entrata? Cosa fa di illegale la vostra azienda? Farà qualcosa di illegale la vostra azienda farmaceutica, come tutte, no? Ma diciamo, io per adesso non l'ho scoperto. Ah, ok. O forse sospendi il giudizio? No, non l'ho scoperto veramente. Senti, sta Giulia, come si chiamava? Si chiamava Giulia veramente. Lì era l'unico nome che ho cambiato, il mio, il resto è reale. Ma non... l'unico pseudonimo che mi sono concesso è il mio. Non l'abbiamo più vista, ovviamente. Ma non l'abbiamo più vista, no? Sono passati. Ma poi questa figura che ha concluso, che conclude il racconto di me incastrato, in realtà avrebbe creato abbastanza imbarazzo negli anni successivi. Cioè, come mai non ti sei presentato all'appuntamento? Perché tu alla fine, cioè, scusa, fammi capire, non sei riuscito a sfilarli sti pantaloni? Non sei riuscito a sfilare i pantaloni, tanto che poi il racconto termina con questa immagine della tazza del tè. Certo, bellissimo. C'è stato un seguito che ho preferito raccontare, quindi sono rimasto intrappolato finché i miei amici del tempo non sono tornati in camera, quindi qualche ora dopo a liberarmi, quindi abbiamo tagliato i cioè, quindi diciamo il momento, uno dei momenti che poteva essere più importanti della tua infanzia si è concluso con dei pantaloni incastrati attorno alle scarpe e degli amici che ti liberavano. Sì, è stato tremendo. Tra l'altro sai che questo tuo racconto ha terrorizzato l'uomo dei tacchetti, cioè Edo che fa i podcast, che siccome si aggira, sapete, è l'unico uomo che va in giro vestito elegante ma con le scarpe da calcio anche al lavoro, perché quest'idea dei tacchetti che non fanno sfilare i pantaloni di velluto potrebbe essere... Erano delle scarpe a ginnastica che andavano, e parlo del sarà stato l'89-90, 88. Ma quelle scarpe tremende si illuminavano pure di rosso. Mamma mia, che roba orribile. Quelle cose che giustamente non producono più. Simone, senti, l'ultima cosa e poi ti lascio tornare alla Novartis. Quando... Che imbecille che sono veramente un cretino. Io non ho sentito niente. No, neanche io. Dimmi se ti sei hai trovato uno straccio di fidanzata alla fine. Sì, l'ho trovata. E ci convivi? Sì, pure. Bravo, ed allora ti sfidi sempre le scarpe prima di sfidarti i pantaloni. Sono ciabatte. che immagine, forse è più brutta dell'uomo con i pantaloni incastrati. Simone, grazie davvero per il tuo racconto e la tua telefonata. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Rimini, 18 anni con un amico. Quanta paura, la mia prima estate da solo. Voi siete qui. Nella foto che mi ha mandato Simone, che vedete ovviamente sulla pagina Voi siete qui di Radio 24, Simone è in un bar. C'è uno strano colore arancione in tutta la foto che non capisco a cosa sia dovuto, probabilmente alle luci. Ha proprio una bella faccia, Simone. Ha la faccia di uno che lavora in una multinazionale farmaceutica seria, dove non si fanno cose sporche. Ha una camicia aperta, aia, mi sa che c'è il gel nei capelli, Simone. Simone, c'hai 30 anni, basta col gel nei capelli. Si faceva quando ne avevi 16 e andavi in vacanza. C'è una signora che prepara un caffè, un sacco di persone intorno, e sopra la sua testa la scritta: il nostro caffè anche in cialde. 349-238-6666. Prima, attraverso l'interfono con Tiziano, dicevamo che com'è che le storie più belle sono quelle che finiscono male? Sembra, una volta mi ricordo avevo visto un concerto di Fossati, ho avuto un periodo di Ivano Fossati tanti anni fa, ma un periodo di Ivano Fossati che andavo a tutti i concerti di Ivano Fossati, e me ne ricordo uno in cui lui a un certo punto scherzava sul fatto che scriveva, aveva un sacco di canzoni d'amore, no? Scritto chiaramente nella sua Ivano Fossati, quello scrive, solo che si era accorto, e lo raccontava durante il concerto, che tutte le canzoni che scriveva, tutte le canzoni d'amore che scriveva erano tristi e finivano malissimo. Poi a un certo punto dice, a un certo punto ne ho trovata una, diceva, l'ho cominciata a rileggere, l'avevo anche incisa, l'ho ascoltata, niente, sono arrivato alla fine, la storia finiva anche bene, ma pioveva. 349-238-6666, la mia prima estate da sola, 15 anni, scappata in moto col mio ragazzo, 21enne, scusami, è da arresto questo, lui 21, lei 15, troppo grande per i miei genitori, no, troppo grande in assoluto. Da Torino al Salento, un mese tra amore e avventura, nuovi brividi e risate, è stata l'estate della mia prima volta, è stata ancora oggi, e lo è ancora oggi che di anni ne ho 36, la migliore estate della mia vita. E poi ancora, grazie per quelli che mi suggeriscono la farmaceutica di Siena, abbiamo capito qual è. E poi ancora, Sashi scrive, 11 anni, prima vacanza studio in Inghilterra, dopo quella avrò fatto, sì e no, 3 vacanze di numero con i miei genitori. E poi ancora Mauro, 18 anni, con il mio più grande amico, giro del Garda in bici. Si erano proprio lanciati, Cosa facciamo? Un bel girone del Garda in bici. Da casa a Peschiera del Garda con un camion frigo. A parte che non sappiamo di dove sei, Mauro, quindi vabbè, comunque, da casa a Peschiera del Garda su un camion frigo. Siamo arrivati, le biciclette erano ghiacciate tipo l'Asca. Beh, non è difficile da immaginare. Prima e ultima tappa, Padenghe del Garda, notte passata con due tedesche. Sembrava un sogno quello che ci è successo. La scoperta di cose solo sentite raccontate. 349-238-6666. Direi che se due che sono andati in vacanza a fare un giro del Garda in bicicletta ce l'hanno fatta, ragazzi, ce n'è per tutti. Viva, viva la prima vacanza da soli. Dove siamo? Qua. È arrivata una mail meravigliosa che fa parte del gruppo di ascoltatori quindicenni, non so se di Radio 24, ma quantomeno di voi siete qui. La sua prima estate è stata questa qua. Lei si chiama Alba e ha 15 anni. Caro Matteo, mi chiamo Alba, ho 15 anni e vivo a Cuneo. Ti scrivo per raccontarti della mia prima estate fuori casa, dal momento che è stata quella appena trascorsa. È stata completamente imprevista, visto che non era in programma di farla. Mi trovavo al mare come sempre, insieme ai miei genitori e a mia sorella Giada, che ha 3 anni più di me. I miei genitori prendono da anni una casa in affitto in Toscana, vicino a Castiglioncello. Ci trascorriamo sempre 3 settimane ad agosto. Eravamo lì con loro, come tutti gli anni. Ma dopo una settimana mio papà si è fatto male giocando a tennis. Si è rotto il tendine di Achille. All'ospedale di Livorno hanno detto che era il caso di operare e lui ha preferito tornare a casa a Cuneo in modo da farsi fare le cose per bene. Non so ancora come io e mia sorella siamo riusciti ad ottenere di rimanere al mare. Forse perché lei è maggiorenne, forse perché a mio papà dispiaceva farci tornare a casa per colpa sua. Insomma, da un giorno all'altro ci siamo trovate da sole, al mare, con una casa tutta per noi. Ero dispiaciuta per mio papà, ma non stavo più nella pelle al pensiero di avere 10 giorni di quella libertà, per di più così inaspettata. Beh, insomma, ti dirò la verità. Credevo di più. Ho fatto tutte le cose che mia mamma di solito non mi fa fare. Sono andata a letto tardi, ho mangiato a qualsiasi ora del giorno e della notte, in ogni angolo della casa. Ho usato Facebook quanto volevo. Non mi sono messa la crema e mi sono anche scottata. Ho baciato un ragazzo. Anzi, a dire la verità, 2. Ma non insieme. Abbiamo organizzato una festa a casa, abbiamo fumato e bevuto un po' di martini. Poi i giorni sono passati via e alla fine mia mamma è tornata a prenderci e siamo tornati a casa. Mio papà sta meglio adesso, ha appena iniziato la riabilitazione. Mia sorella non fa altro che parlare di questa vacanza, dice che dall'anno prossimo basta fare con i miei, dice che una volta che hai assaporato la libertà non puoi più tornare in carcere. Io a dire la verità sono un po' in imbarazzo, perché per me questa prima estate da sola non è stata così indimenticabile. Forse non ho incontrato qualcuno che me l'ha fatta godere, o forse sono ancora troppo giovane. Spero solo di non essere sbagliata io e di non avere paura di quella libertà. Ciao, Alba. qualcosa contro il gel sui capelli a 38 anni? Forse sei tu quello che si pettina come un sedicenne. Cosa c'è che non va, ragazzi? Una giornataccia per tutti, eh. Però è venerdì. In teoria, no. Anche per te starà finendo sta settimana, nonostante ti metti il gel sui capelli a 38 anni. Va bene tutto, no? Però. Prima vacanza da sola è stata con mia mamma. Da poco lasciata da mio padre. I silenzi erano lunghi e anche troppo, ma quanto è stato bello starle vicino per la prima volta. Mi sono sentita io utile a lei. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. In questo fine settimana tutta la redazione si mette a leggere tutti i nuovi racconti che sono arrivati. Lo dicevo già ieri, che sono tutti belli e interessanti. No, non è vero. Dai, non è, allora, non è proprio, non sono proprio tutti belli e interessanti. Però a tutti hanno quantomeno un cuore. Quindi non riusciremo a leggerli tutti, perché semplicemente non abbiamo puntato a sufficienza. Ma a tutti rispondiamo e a tutti facciamo capire che c'è stima. Cosa, non so, sto dicendo, no, nel senso che ci fa piacere il fatto che ce li mandate. C'è un altro messaggio che è arrivato orora, che dice così: a 17 anni mandato da una mia zia nello Yorkshire. Da lì sono stato 5 giorni a Londra da solo. 5 giorni a Londra da solo non è poco a 17 anni. Stefano, bellissimo il mio campo scuola di vela con la Lega Navale Italiana. Sì, perché io che vivo sul Garda, ahia, e c'è subito il giro in bicicletta sul Garda in agguato, eh. Per antonomasia la Fabbrica del Vento, ho fatto il mio corso di vela, la mia prima vacanza di 2 settimane, in un lago artificiale in provincia di Ferrara. Ma che spasso per un 14enne. 349-238-6666. Io volevo ringraziare anche tutti quelli che continuano a mandare i racconti in formato cartaceo, che è veramente una cosa che apprezzo, perché ci si mette del tempo, perché c'è la carta, perché vedi la scrittura, eccetera eccetera. È un po' complicato poi lavorarli, ammetto. Però magari se ne mandate due, fate così, mandate la copia cartacea e poi mandate anche quella in file. Voi siete qui, @radio24.it. Ma vorrei chiudere una puntata allegra come quella di oggi, visto che è venerdì, con un messaggio di grande malinconia. Cristiana, mai passato un'estate da sola, figlia unica, la pupa pure quando ha avuto i pupi. E già, vabbè. E ho detto tutto, una tragedia o una comica, dipende, chissà chi ero nella mia vita precedente. L'ironia non salverà il mondo, di certo salverà me. Grazie a Cristiana, grazie a Stefano D'Andrea, a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Viola Bottoni. La storia di oggi era quella di Simone e parlava della prima estate da soli. Quella di lunedì invece è la storia di Gustavo e racconta di quando nasce un bambino. Al pronto soccorso della maternità mi dicono di restare fuori. Io sono spiazzato. Certo, così è difficile fare il bravo marito. Ecco, per un istante penso di mandare a quel paese l'infermiera e di esigere di stare con mia moglie. Poi penso che lei in realtà è 100 volte più forte di me, per cui forse non ha tutto questo bisogno. E allora mi metto lì e faccio il bravo. In fondo lei sa che sono solo dall'altra parte di uno strato di legno e di formica.